Innanzitutto vorrei dire una novità che dopo il 1954, ovvero la prima proposta di legge sul salario minimo in Italia, se ne ricomincia a parlare nel 2019, è una situazione drammatica per i lavoratori, nel senso appunto che come sappiamo impoverimento generalizzato da ormai più di un decennio, quindi non soltanto con la crisi, ma è vero che si riapre un dibattito che vede fortemente polarizzato sia l'arena politica ma anche quella sociale, piuttosto che parlare soltanto di governo e quindi diciamo di antagonismo sulla questione tra Movimento 5 Stelle e Lega, direi Movimento 5 Stelle contro il resto del mondo, il che fa capire che è un tema sicuramente scottante, ma è anche un tema abbastanza sottovalutato e poco dibattuto, perché quindi trovare alla stessa parte la barricata sindacati, Confindustria, Assocooperative e Lega fa in qualche modo no, paura in un certo senso. Quello che c'è oggi, appunto, sul piatto è la discussione politica, ma che poi dovrebbe essere una discussione pubblica, quindi più allargata, è la proposta di salario minimo, che adesso dovrebbe essere, secondo appunto, la proposta del Movimento 5 Stelle, circa 9 euro orari lordi, come trattamento minimo e quindi escluse le retribuzioni legate alle ferie, alle tredicesime, gli, cioè, insomma, il, diciamo, quel salario interno, ma che è accessorio. Oltre l'orario minimo, cioè oltre il salario minimo orario di per sé. A questa proposta del Movimento 5 Stelle sono state in qualche modo alzate le barricate da più fronti, perché secondo diverse, se vogliamo, argomentazioni, alcune in realtà molto simili. La prima che viene appunto dal fronte padronale è che 9 euro di salario lordo orario sono troppo alti. Ci credo, nel momento in cui il salario mediano in Italia torna agli 11 euro e abbiamo, secondo l'audizione dell'Istat, oltre 3 milioni di lavoratori che in realtà guadagnano meno e abbiamo dei contratti firmati a livello nazionale che pagano 4 euro l'ora. Dall'altro lato, altre argomentazioni che sono quelle proprio per esempio dei sindacati, si dice che il salario minimo in realtà è incompatibile con la contrattazione collettiva e non spetta alla politica stabilire i salari ma alle parti sociali e quindi ai sindacati. Questa cosa ovviamente è una discussione quasi allucinante, perché noi abbiamo molte esperienze europee, tra l'altro le più forti dal punto di vista salariale, come la Francia, dove il salario minimo e la contrattazione collettiva e anche quella, diciamo, la parte decentrata poi della contrattazione aziendale vanno di pari passo. Perché? Perché il salario minimo orario va inteso come un pavimento oltre il quale non si può scendere e non si può scendere per nessun lavoratore, quindi in realtà è una battaglia molto unificante sulla parte bassa della distribuzione dei salari, ma che è anche una distribuzione della segmentazione sociale, se vogliamo. Ecco, sì, a questo punto, visto che citavi la Francia, ti chiederei anche, diciamo, siccome si è detto anche non ci sono paesi dove funziona o non si può fare, ti chiederei anche un quadro un pochino della situazione europea rispetto al salario minimo. Allora, guardando i paesi membri dell'Unione Europea, quindi a 28, in 22 esiste il salario minimo, e in altri 6, tra cui appunto l'Italia, la Svezia e pochi altri no. Il salario minimo orario, lì dove esiste, ovviamente è molto variabile, partiamo da 2 euro l'ora, diciamo, dell'Est Europa fino a più che 10 euro l'ora del Lussemburgo, in realtà sono anche un po' di più, e 10 euro esatti sono è il salario minimo orario francese. La Germania sono istituti che esistono già da molti anni. La Germania invece, per esempio, è stato introdotto soltanto nel 2015 con un salario orario lordo di 9 euro, il che significa che per i salari e per l'economia tedesca questo è un salario bassissimo. Che però anche soltanto a un livello, anche già a un livello così basso, gli effetti che sono stati studiati in questi primi 3 anni di applicazione mostrano che il salario minimo quantomeno riesce a ridurre le diseguaglianze salariali e riesce a portare in parte o comunque vicino alla soglia di povertà, rialzando le condizioni materiali proprio di quei soggetti che sono sempre stati schiacciati, se vogliamo, dalle ARS 4, dalle riforme di svalutazione del lavoro fatte in Germania. Quello che viene detto in realtà appunto nei dibattiti, ma l'ha detto anche l'Ocse pochi giorni fa, è che il salario orario italiano a 9 euro lordi è troppo alto rispetto ai salari mediani. Ora, questa cosa qui è anche un discorso, non è complicato, però è già di per sé politico, per un indicatore come il salario mediano, che di fatto misura il livello salariale del 50% più povero dei lavoratori, viene assunto come un salario oltre il quale, anzi, in realtà si assume che il salario minimo non possa superare il 60% del salario mediano. In realtà questo 60% di salario mediano non è che un salario di sussistenza, così come lo definisce l'ILO, ma si dice che non può essere superato perché altrimenti come dire, si creano, no, degli scompensi nell'economia, perché si pagano troppo sostanzialmente i lavoratori poveri. Ovviamente il punto centrale e politico è stabilire se il salario minimo orario a 9 euro o a 10 euro francesi, che è elevato. Tra l'altro la Francia è l'unico paese che supera il 60%, se vogliamo, del salario mediano col salario minimo orario, e quindi stabilire se è il salario minimo ad essere troppo basso o sono i salari mediani ad essere troppo bassi. E forse è questo appunto che quindi ritorna e fa rientrare la discussione salariale, in generale la questione salariale, dentro il grande dibattito delle disuguaglianze, perché appunto molti dicono che il salario minimo orario o mensile, comunque a seconda di come si misura, deve essere un meccanismo che aiuta i lavoratori a uscire dalla povertà. In realtà quello che bisogna dire a favore del salario minimo per i lavoratori è che il salario minimo invece diventa quello strumento, come dire, per evitare, dovrebbe essere lo strumento che eviti proprio che esista la povertà lavorativa, anche perché insomma non è una condizione a cui vogliamo abituarci. Quello che è successo in Europa negli ultimi anni è che in realtà il salario minimo, appunto dopo soprattutto la crisi, a un certo punto si è capito che qualcosa bisogna fare ai salari, tranne in Italia e pochi altri paesi, ed è stato aumentato. Per esempio l'anno scorso in Spagna Podemos è riuscito a strappare al governo socialista un aumento del 22% del salario minimo orario spagnolo, che comunque rimane ancora a circa 6,5 euro, e quindi, come dire, anche lì bassissimo. Altri paesi come la Lituania hanno aumentato i salari minimi, rimangono ancora molto bassi, ma sicuramente, come dire, porre un freno, un pavimento alla caduta dei salari, sia nominali che reali, non può che essere una battaglia a favore dei lavoratori, e non è assolutamente una battaglia che spezza il fronte sindacale o anche il potere, se vogliamo, negoziale dei sindacati rispetto alla contrattazione.